quel padre. Ah, tu che puoi del mio megagli amato, se pietosa pur sei, come sei bella, cerca recarmi, oh Dio, qualche novella.